fuoco lento che incenerisca tutto quello che zavorra, perdi tempo, inutilità, frustrazioni, remore. Quante frustrazioni, ditemi voi. Il Signore Dio, per farci santi, chiede molto meno di quello che chiedono le cianfrusaglie, che ci fanno perdere un sacco di tempo e di fiato. Ah, basta molto meno per essere ottimi cristiani, santi, eroici, molto meno di quello che chiede il denaro, l'impurità, l'invidia, la gelosia, la superbia, la vanagloria. Questi idoli sono tiranni, sanguisughe, e Dio non chiede neanche la metà, neanche la centesima parte, perché tu possa diventare un degno figlio di Dio e un cittadino di casa sua, un suo familiare nel regno dei cieli. E perché a volte ci troviamo senza voglia? Perché la voglia l'abbiamo spesa male e ci troviamo senza. Perché non abbiamo soldi per fare la carità ad un povero? Perché abbiamo mille capricci per i quali spendiamo, espandiamo, consumiamo il denaro. Perché ci troviamo senza forza da respingere un pensiero cattivo? Perché abbiamo sempre la testa piena di pensieri vani, sciocchi. E al momento della reazione, che cos'hai nel bagaglio? Che cos'hai nella riserva della tua testa? Che cos'hai? Non hai pensieri buoni, tu che hai sempre la testa piena di pensieri stupidi, impuri, sudici. Hai la tua testa logorata dietro pensieri, e poi è il momento di resistere. Oh, con che cosa vuoi resistere? Che di buono non c'hai niente. È come uno che ha fame e ha lasciato che la sua roba andasse a male nella dispensa, nel frigo, andasse a male. Adesso che hai fame, apri qui, apri là, tutto è marcito. Certuni fanno marcire i doni di Dio e al momento della battaglia sono come soldati disarmati, senza armi, non sanno come liberarsi da quel pasticcio, come salvarsi da quella occasione di peccato. Perché? Perché sono sempre logorati dietro cose inutili, dietro cose che non hanno valore. Al momento di difendere cose di valore, tu non hai più forza, perché l'hai sciupata tutta quella. Supponete che uno sia lì che corre dietro il vento, vuole inseguire il vento. Tu cosa fai? Ti logori a voler stringere nelle mani dell'acqua. E darti da fare, ma come non è possibile stringere nel pugno il vento, tu non puoi stringere nel pugno l'acqua. Se andate ancora in spiaggia a prendere il sole, col pugno quanta sabbia puoi stringere? Ah, ti sfugge dalle dita quella sabbia e tu ti intestardisci di voler rincorrere il vento, di voler impugnare l'acqua e di voler stringere fra le mani la sabbia del deserto. Per forza, quando è il momento di tornare in sé e diventare realisti, non hai più fiato di fare il bene, di compiere il tuo dovere, di fare l'onesto, di fare l'uomo giusto, perché ti sei logorato, anima e corpo, dietro le stupidaggini. Ditemi voi, quando uno si incolla alla televisione per ore e ore, che cosa gli resta? È capace poi di dire un Padre nostro? Che si recita in mezzo minuto, anche quando si va adagio, mezzo minuto, un Padre nostro. Non ha più capacità. E gli sembra una cosa difficile dire tre Ave Maria prima di coricarsi un atto di dolore, prima di addormentarsi, perché la testa è piena di tutt'altro che di cose buone, giuste, vere, sante. Certuni hanno la testa che assomiglia a un cassonetto della nettezza pubblica. Oh sì, è un paragone brutto, ma non è ancora così brutto quanto basta. Certuni hanno il cuore pieno di terra, di fango. Cosa volete che siano capaci poi di un gesto di bontà? Che siano bravi nel fare un gesto di culto, di adorazione a Dio? come possono avere il gusto della grazia santificante, il gusto della trasparenza spirituale, il gusto del bene, quando hanno il palato ormai avvelenato, ormai intossicato di tante cose che non servono a camminare sulle vette dei monti. Butta giù dalle spalle tutto questo peso. Certe abitudini, amici, tirano indietro, non spingono in avanti. Certi vizi, ormai che abbiamo una certa età, dobbiamo scoprirli, sono nemici, tanto più dannosi quanto meglio si sono presentati come amici piacevoli. Il peccato si presenta sempre con un volto mascherato, piacevole, e invece non c'è nemico più terribile che il peccato, specialmente il peccato mortale. Bisogna smascherarlo il peccato, smascherarli i nostri vizi, smascherarli i nostri difetti, e allora finalmente ci sarà posto nella testa e nel cuore per cose belle, idee pulite, progetti santi, atti di bontà, di purezza, castità veramente angelica, anche sì, sovrumana.